Nicholas Roosevelt si arrese. Come si può inseguire un battello a vapore per oltre 2000 miglia? La polizia e i tribunali costano più del valore della licenza. Il cancelliere Livingston aveva perso il monopolio dello Stato di New York. Era anticostituzionale e non si sforzò mai di perseguire il brevetto federale di Fulton sulla ruota laterale di Nicholas Roosevelt. Anche questi fatti sono una parabola. Il governo mantiene qualsiasi monopolio. Un monopolio economico o finanziario oggi è un residuo frammentario dell'antico, assoluto e completo monopolio governativo. In questo nuovo mondo ogni monopolio sopravvissuto è una concessione governativa protetta dalla polizia. Senza questa protezione nessun monopolio potrebbe esistere. Chiedere al governo di sciogliere i monopoli che mantiene è un'assurdità. Il governo americano crea i trust. E il governo americano cerca di far rispettare una legge antitrust. Qualsiasi amministrazione che voglia prevenire e distruggere i trust deve solo abolire l'ufficio brevetti. Che il governo smetta di proteggere i trust con la forza della polizia e non ci sarà alcuna restrizione più del commercio. Solo la forza ostacola la liberazione creativa e distruttiva delle energie umane. E nella civiltà il governo è il monopolio della forza. Il modo per aumentare il potere di qualsiasi monopolio economico, industriale, commerciale e finanziario e per renderlo così inespugnabile che nessun mezzo pacifico può distruggerlo è renderlo un monopolio governativo. Il modo per tornare all'antico monopolio totalitario di tutta l'industria, di tutto il commercio e della finanza è quello di tornare all'economia pianificata, alla proprietà statale di tutti i mezzi di produzione e distribuzione. Gli esseri umani vogliono monopoli liberi e non protetti, altrimenti non li creerebbero. I singoli americani hanno creato l'unico servizio telefonico in molte città di questo paese, abbandonando molte compagnie telefoniche. Allo stesso tempo, gli americani sostengono circa 60.000 compagnie telefoniche indipendenti in questi stati, perché il governo americano è l'unico che non detiene il monopolio del servizio telefonico. Gli americani liberi hanno creato i dime store e i supermercati, abbandonando i piccoli negozi di Boston Racket pieni di mosche e i vecchi empori di merci generiche con i loro barili di cracker e gli aratri. E gli americani di domani diserteranno e distruggeranno i cosiddetti monopoli delle catene di negozi se qualcuno inventerà un metodo migliore per soddisfare i bisogni individuali. Durante questo secolo rivoluzionario, i monopoli che gli uomini hanno costruito in questi stati sono stati meno protetti dal governo rispetto a qualsiasi altro monopolio del passato o di altri paesi. In generale, questo governo rivoluzionario non ha cercato di controllare e anzi ha limitato le compravendite di nessuno. Potendo agire liberamente, gli americani hanno distrutto i monopoli con la stessa rapidità con cui li hanno creati. Gli americani possono distruggere l'intera industria automobilistica domani, semplicemente comprando aerei. Così come, semplicemente comprando automobili, hanno distrutto ieri quel mostro incombente, quella vergogna delle città, il monopolio dei tram. E come gli americani liberi hanno distrutto i monopoli delle diligenze e delle taverne usando i battelli a vapore e i monopoli dei battelli a vapore del sindacato dei piloti usando le ferrovie. In un'economia libera, pianificata e controllata da individui liberi, non può esistere alcun monopolio che non sia ansioso di servire con piacere il maggior numero di individui. Nessun monopolio può sopravvivere se cessa di servire e compiacere questi ultimi. Questo fatto è una grande scoperta fatta nel secolo scorso. Quando la polizia non interferisce con gli usi naturali dell'energia umana, nessun monopolio economico è sicuro. Questo è il motivo per cui i controrivoluzionari, i comunisti, i fascisti, i nazisti che non credono che gli uomini siano liberi e che non hanno fiducia nella natura umana, stanno cercando di ripristinare l'antico monopolio del governo che è protetto e fatto rispettare dalla polizia in modo che nessun individuo possa attaccarlo e nessun genio inventivo possa distruggerlo. E questo è il motivo per cui oggi in ogni paese big business e labor, vale a dire gli avidi e senza scrupoli o gli ignoranti tra gli uomini di grande ricchezza e gli ignoranti o i criminali tra i leader dei sindacati accolgono con favore il governo che dà protezione poliziesca ai loro monopoli di ricchezza e di lavoro. Quando gli uomini liberi migliorarono i piroscafi in modo che nemmeno le navi Clipper potessero più competere con loro, gli americani persero la padronanza americana dei sette mari. La persero perché gli inglesi avevano il libero commercio che le navi Clipper americane avevano concesso loro, ma gli americani erano ancora protetti, tra virgolette, dalla tariffa di protezione. Questo semiblocco del commercio, mantenuto dalla polizia americana alle frontiere degli Stati Uniti, ha innalzato i prezzi e i salari americani a tal punto, nei termini artificiali del dollaro, che un piroscafo americano costruito con metalli americani da lavoratori americani non può trasportare passeggeri o merci nel commercio mondiale a un prezzo altrettanto conveniente delle navi metalliche britanniche. Pertanto, la Britannia domina le onde. E quindi, quando la Repubblica ha bisogno di navi, questo governo deve prendere miliardi di dollari da questi americani protetti e spenderli per la costruzione di navi da parte del governo, e manca di marinai americani per farle navigare. Tenuti all'interno del muro di protezione, gli americani smisero di costruire navi. Costruirono invece automobili e aerei. Quindi nessuno potrà mai sapere quali progressi incredibili come le navi Clipper la libera concorrenza avrebbe spinto gli americani e gli inglesi a creare navi a vapore. Gli alti prezzi e gli alti salari che la polizia può mantenere bloccando il commercio alla frontiera o all'interno di un paese non significano nulla. Non fa alcuna differenza se un uomo guadagna 2 dollari al giorno o 25 dollari. La vera misura del costo dei beni è la quantità di energia umana utilizzata per creare questi beni a partire dai materiali della terra. 40 anni fa un uomo lavorava 12 ore per un dollaro, il burro costava 10 centesimi la libra, ora un uomo lavora 7-8 ore per 10 dollari, il burro non costa un dollaro ma forse 50 centesimi la libra, può aumentare il prezzo del burro aumentando il suo salario o abbassarlo diminuendo il suo salario. E tutti questi calcoli in dollari sono un gioco di illusioni. Il vero costo del burro è la quantità di energia utilizzata per produrlo. 40 anni fa, una libra di burro costava un'ora di zangolatura in una zangola di ceramica con una spatola di legno a mano. Per non parlare di tutte le operazioni di spremitura del latte 2 volte al giorno, di scrematura della panna dalle teglie con un mestolo di legno, di lavaggio delle teglie e del mestolo, di corsa su e giù per la cantina con il barattolo della panna, senza contare le faccende nella stalla. Oggi il latte scorre per migliaia di galloni attraverso separatori e cremerie, le macchine lavorano alla zangolatura e modellano il burro e lo tagliano in quarti di libra e lo avvolgono in carta e lo mettono in scatole cerate e litografate. Viaggia in camion refrigerati verso frigoriferi elettrici di porcellana. Un chilo di burro costava 10 centesimi, ora ne costa 50, anzi, il suo costo è stato dimezzato. L'ostruzione del commercio alle frontiere della Repubblica ha distolto l'energia americana dalla costruzione di navi, cosicché ora è necessaria più energia per costruire in fretta le navi necessarie. Ma i produttori americani, sia i proprietari che i salariati, hanno sbagliato a credere che l'ostruzione del commercio abbia aumentato la prosperità americana. L'energia umana è l'unica cosa che produce beni. In un secolo gli americani hanno aumentato a tal punto l'efficacia dell'energia umana che un lavoratore americano produce una quantità enormemente maggiore di beni in meno tempo e con meno energia umana di quanto qualsiasi lavoratore abbia mai fatto prima nella storia o possa fare ora in qualsiasi altra parte del mondo in cui l'industria non sia stata, tra virgolette, americanizzata. Tutti i beni sono prodotti per essere utilizzati, non esiste produzione che non sia destinata all'uso. Il cosiddetto sistema del profitto cessa di esistere, come sanno tutti gli americani che ricordano il crollo di Wall Street, quando le persone sono ostacolate nel consumo dei beni che producono. Se nessun governo ostacola il libero operare delle energie umane, gli uomini distribuiscono e consumano i beni con la stessa velocità con cui li producono. Questo è lo scopo e l'oggetto della produzione. Nessun uomo può avere un altro scopo nel produrre beni. Il signor Ford non fa profitti ammassando automobili l'una sull'altra nel Michigan. Se gli americani smettessero di consumare le sue automobili, il signor Ford andrebbe in rovina. Tutti i suoi profitti passati svaniranno completamente con la scomparsa delle sue fabbriche, così come i profitti delle compagnie di diligenze sono svaniti quando le diligenze sono marcite. Poiché tutti i beni prodotti devono essere consumati e l'energia umana in America produce più beni che altrove, tutti gli americani consumano di più. Questo è il motivo per cui il tenore di vita americano è il più alto mai raggiunto finora. Questo è il motivo per cui, per la prima volta in 6.000 anni, gli uomini hanno iniziato a credere che la povertà possa essere abolita. Può essere. Sarà. La rivoluzione è solo all'inizio. Quando tutti gli uomini viventi sapranno che gli uomini nascono liberi, l'energia di oltre 2 miliardi di esseri umani cosa farà quando si libererà su questa terra? 100 milioni hanno fatto l'America. Cosa faranno 2 miliardi e 200 milioni di esseri umani? 11. La rivoluzione mondiale. Meno di 3 milioni di uomini e donne hanno iniziato la rivoluzione, non più di 2 secoli fa. Su un'area molto piccola di questa terra, una piccola percentuale della sua popolazione è stata in grado di usare la propria libertà naturale in misura maggiore in questi stati, in misura minore nel Commonwealth britannico e un po' sul bordo occidentale dell'Europa continentale. Per poco più di un secolo, l'energia umana ha attaccato efficacemente i nemici della vita umana, soprattutto in questi stati, un po' meno efficacemente nel Commonwealth britannico e un po' nella parte occidentale dell'Europa. Gli americani hanno dato vita con grande vigore alla rivoluzione industriale, piroscafi, ferrovie, telegrafo, cavi transoceanici, telefoni, macchine agricole, ascensori, grattacieli, metropolitane, ponti, dighe, centrali idroelettriche, radio, aerei. Il nuovo mondo. Gli americani hanno creato l'era delle macchine, la produzione di massa e la distribuzione di massa della ricchezza prodotta, perché la ricchezza prodotta deve essere consumata. 3 generazioni, da nonno a nipote, hanno creato meraviglie che superano la massima immaginazione di tutti i tempi precedenti. Mai nella loro lunga storia gli europei hanno vissuto 95 anni senza carestie. Nelle Americhe, nel Commonwealth britannico e nell'Europa occidentale, mai in nessun altro luogo, nessuna popolazione di massa è morta completamente di fame fino a questa guerra dall'anno 1848. L'uso libero dell'energia umana in questi stati ha trasformato completamente la vita di ogni americano. 20 anni fa l'energia americana ha iniziato a trasformare l'intero mondo umano per tutti coloro che vivono su questo pianeta. Tutti gli europei e gli asiatici hanno una parola per definire la creazione del nuovo mondo nei loro paesi. Dicono americanizzazione. I loro intellettuali la odiano, attacca le basi stesse del loro pensiero del vecchio mondo. Solo una volta nella storia conosciuta c'è stato qualcosa che assomiglia a questo nuovo mondo. Era il mondo dei Saraceni, che si estendeva su 3 continenti, dall'Atlantico alla Cina, al Gange, e durò per 800 anni. Questo nuovo mondo abbraccia l'intero pianeta, raggiunge le isole più remote, include gli eschimesi oltre il circolo polare artico e i selvaggi nudi nelle giungle equatoriali, e non ha ancora 50 anni. Nulla di simile era mai stato sognato prima. Questo è un mondo totalmente nuovo, è un mondo che non ha nulla a che fare con razze, fedi, classi o nazioni. Abolisce tutte le barriere tra gli esseri umani. Le ferrovie hanno attraversato le frontiere, i telefoni le hanno perforate, gli aerei le sorvolano, la radio non conosce frontiere. Questo nuovo mondo è un intricato gioco di energie dinamiche, una rete vivente che racchiude tutta la Terra e che lega tutti gli esseri umani in un unico sforzo comune, in un unico destino. Un greco mangiava pane perché un americano fumava sigarette, gli americani mangiavano ananas maturati alle Hawaii perché i birmani estraevano stagno. Il bambino di una madre giapponese cresceva grasso e ridente perché una studentessa americana indossava calze di seta. Gli americani sfrecciavano su una gomma vorticosa perché i malesi coltivavano alberi della gomma. Questo è il mondo umano fraterno che gli esseri umani vogliono naturalmente creare o co-creare. È il mondo che iniziano a creare quando nessuna falsa credenza e nessun uso della forza lo impediscono. Ma la mente degli uomini cambia più lentamente delle loro azioni. Una vecchia abitudine di pensiero persiste anche quando le azioni del pensatore stesso la contraddicono. Gli uomini che hanno costruito le prime carrozze senza cavalli, le auto a motore, hanno dotato i cruscotti di bacchette e fruste. I cavalieri delle praterie occidentali, dove non c'è nulla a cui legare il cavallo, gettano le redini sopra la sua testa. A metà corsa si ferma quando toccano il suolo, rimane in piedi, affamato, assetato, in vista di cibo e bevande, e non si muove finché le redini non vengono sollevate. Non è legato, è libero. Una falsa convinzione lo trattiene più saldamente di quanto possano fare le corde. Il mondo antico ha più di 6.000 anni. Gli americani hanno iniziato questo attacco rivoluzionario adesso non più di 2 secoli fa, e in ogni americano ci sono residui di superstizioni pagane e di vecchi assunti indiscussi, e un dare per scontate le barriere di razza, classe, credo, colore e nazionalità tra gli esseri umani. Gli americani devono imparare a essere liberi. Dei 2 miliardi e 200 milioni di uomini e donne che vivono su questa terra, solo pochi hanno capito la rivoluzione. Nemmeno tutti gli americani comprendono il fatto che gli individui controllano l'unica energia che crea il mondo umano. La scoperta di questo fatto qui in America ha scosso e confuso le menti degli uomini ovunque. Il suo primo effetto mondiale fu la Rivoluzione francese. Per 4 anni in Francia pochi uomini che avevano compreso la libertà cercarono di instaurare la rivoluzione in mezzo a una vasta maggioranza che credeva indiscutibilmente nell'autorità. Poi quei pochi furono travolti dal terrore e morirono sulla ghigliottina. Così com'era, compreso il terrore, il primo sforzo francese durò 12 anni. La sua vita fu tanto breve quanto la sua morte fu violenta. Finì quando la democrazia francese, con un voto schiacciante, 3 milioni e mezzo di uomini contro 2.500, elesse l'imperatore Napoleone. Gridando il grido di battaglia della libertà, senza sapere cosa significasse, i francesi arruolati marciarono alla conquista di tutta l'Europa e all'attacco della Russia per la gloria della Francia e dell'impero ereditario di Napoleone. Andarono volentieri, con entusiasmo, credendo di essere liberi perché avevano votato per il tiranno a cui obbedivano. E la loro energia portò la bandiera francese dall'Atlantico al Mar Nero e da Gibilterra a Mosca. Hanno cancellato frontiere e rovesciato troni per poi rimettere in piedi quei troni con sopra i burattini di Napoleone. Lo sforzo di Napoleone fu quello che oggi è di Hitler. Era la reazione del vecchio mondo alla rivoluzione americana. Napoleone cercava di creare con la forza un'Europa unita in cui tutti gli europei sarebbero stati controllati in un'economia pianificata da Napoleone stesso, fatta rispettare dalla polizia francese e al servizio non della Germania di Hitler, ma della Francia di Napoleone. Il sistema continentale di Napoleone incombeva sull'Europa come oggi incombe il nuovo ordine di Hitler. Il suo sforzo per stabilirlo e farlo funzionare andò avanti fino a quando l'energia umana della Francia non fu completamente esaurita. Poi Napoleone cadde, come disse Victor Hugo, Dio si è stancato di Napoleone. Quel primo sforzo francese per unirsi alla rivoluzione aveva creato la Germania moderna. Ma la rivoluzione non è mai cessata in Francia. Da quando i francesi vi hanno aderito, hanno creato 3 repubbliche, una comune e 3 imperi, tutto questo in meno di 90 anni. La Terza Repubblica francese si conclude ora in 2 modi, con la dittatura del maresciallo Pétain e con la Francia combattente del generale de Gaulle. Naturalmente questa non è la fine della rivoluzione in Francia. Scrivendo di essa meno di un secolo fa, Carlyle disse: «È da questa data, se si può profetizzare, ci sono ancora 2 secoli di lotta, 2 secoli, difficilmente meno». Nel frattempo la rivoluzione si diffondeva rapidamente nelle nostre Americhe del Conte Aranda. 1810-12, insurrezione in Messico, Venezuela, Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay. La grande armata di Napoleone invade la Russia. 1813, il Messico dichiara la propria indipendenza. Bolívar, il liberatore, scaccia la monarchia spagnola dal Venezuela. 1818, Repubblica Costituzionale del Cile. 1819, Repubblica Costituzionale di Colombia. 1820, gli italiani si ribellano e lottano per la libertà e l'unità d'Italia. E nei Balcani e in Africa la rivoluzione ha ispirato agli uomini una speranza di libertà. 1815, i serbi si ribellano e combattono per la Serbia libera. 1821, dichiarazione di indipendenza della Grecia. Lord Byron, il poeta ribelle inglese, cerca di guidare la rivoluzione greca e muore in Grecia. 1821, Repubblica Costituzionale del Perù e Repubblica Costituzionale del Guatemala. In tutte le Americhe, in tutta Europa, la speranza di libertà ha portato innumerevoli uomini sconosciuti a rischiare la vita, a perderla o a perdere la speranza. In un secolo di guerra hanno contribuito a strappare all'impero turco la Serbia, la Grecia, l'Egitto, la Bosnia, l'Erzegovina, la Croazia, la Dalmazia, la Romania e la Bulgaria. L'impero austriaco ottenne i Balcani occidentali, l'impero britannico prese l'Egitto e dominò la Grecia. Ovunque in America centrale e meridionale i liberatori si sollevarono, combatterono e liberarono i loro paesi dal vecchio mondo. Dal Rio Grande a Capo Speranza hanno fondato repubbliche costituzionali in lotta. E il presidente degli Stati Uniti, in qualità di leader della rivoluzione, ha annunciato al vecchio mondo che gli americani avrebbero combattuto per proteggere l'esistenza di una o di tutte queste giovani repubbliche. Questa è la dottrina Monroe. Negli anni 40 del XIX secolo, la rivoluzione americana stava provocando confuse ribellioni in tutti i paesi europei. Decine di migliaia di rivoluzionari sconfitti, soprattutto tedeschi, si rifugiarono in questi stati. Come scuola delle donne, è doveroso ancora una volta prendere le distanze da quanto afferma Rose in queste righe, poiché sappiamo che c'è tutt'altra teoria sull'influenza che gli Yankee ebbero sugli stati dell'America Latina, e cioè che vi abbiano piazzato in posizioni di leadership dei burattini da poter controllare e manipolare. Tuttavia, proseguiamo nella lettura delle entusiaste e patriottiche affermazioni di Rose Wilder in omaggio al suo coraggio giornalistico e alla sua spregiudicata e lucida analisi storica, ricordando sempre che queste sono parole sue, non nostre. Riprendiamo la lettura. Negli anni 50 del XIX secolo, Garibaldi, il liberatore italiano, tornò a combattere per la rivoluzione in Sud America, per combatterla in Italia. I rivoluzionari italiani vogliono ancora libertà e unità, ma ad oggi hanno ottenuto Mussolini. Nel 1860 lo zar di Russia liberò il popolo russo, i servi della gleba, dalla loro servitù feudale alla terra. I russi iniziarono a cercare di instaurare una monarchia costituzionale. Nelle Americhe le rivolte continuarono fino al 1898, quando gli americani uscirono per la prima volta dalla Repubblica per combattere la rivoluzione. Le truppe statunitensi aiutarono i rivoluzionari cubani a liberare Cuba dalla Spagna. Allo stesso tempo, i rivoluzionari filippini vinsero la loro lunga battaglia per cacciare gli spagnoli dalle loro isole. Ma questa è una vera rivoluzione mondiale, non è un sogno, non procederà senza intoppi verso l'utopia. Questa rivoluzione è reale e si scontra con la realtà, ha un mondo da conquistare, un mondo reale che le resiste. La controrivoluzione era in questa Repubblica. Invece di liberare i cubani, il governo federale si impadronì di Cuba. Quando i rivoluzionari filippini, vittoriosi e felici, avevano accolto le truppe americane come alleate e amiche, gli americani li attaccarono e li combatterono per 4 sanguinosi anni, cantando «Civilizzateli con un crag!» e si impadronirono delle loro isole. Il governo federale pagò il governo spagnolo per averle. In seguito gli americani ripudiarono questa ricaduta dell'imperialismo del vecchio mondo. Il governo federale concesse l'indipendenza ai cubani e fece in modo di concedere l'indipendenza ai filippini nel 1946. Nel 1911 la rivoluzione americana fece la sua comparsa in Cina. I rivoluzionari cinesi, istruiti negli Stati Uniti e aiutati dagli americani in Cina, detronizzarono l'imperatrice vedova e iniziarono il loro sforzo per stabilire una repubblica cinese. Allo stesso tempo, curdi, arabi, turchi, armeni si unirono alla rivoluzione. Il sultano di Turchia, spaventato, concesse loro una costituzione. Poi, ancora più spaventato dall'entusiasmo popolare, la revocò. I rivoluzionari turchi lo detronizzarono. E dopo anni di sforzi confusi e disorientati, ora hanno un dittatore al posto del sultano. Nel 1912 la rivoluzione ispirò persino i signori feudali albanesi. Essi uscirono dal Medioevo per dichiarare l'indipendenza della Repubblica Albanese e modellarono la loro Costituzione sulle Costituzioni americane. Le cinque potenze, Francia, Inghilterra, Germania, Russia e Italia, misero sul trono albanese un re tedesco e lo protessero dai suoi sudditi con le loro cannoniere nel porto di Durazzo, ma solo fino a quando non si rivolsero le armi l'una contro l'altra, nel 1914. Nel 1917 gli americani combatterono in Europa per la rivoluzione. Primi risultati: rivoluzione in Russia, rivoluzione in Germania, un breve saggio di Repubblica Russa, una Repubblica tedesca con più lotta. Poi i controrivoluzionari comunisti si impadronirono della Russia, i controrivoluzionari fascisti si impadronirono dell'Italia e la democrazia tedesca elesse i controrivoluzionari nazionalsocialisti. Questo per quanto riguarda un rapido sguardo al primo secolo di rivoluzione mondiale, non una generazione né un secolo conquistano il mondo reale. Da quando il conte Aranda ha parlato, i nemici della rivoluzione americana sanno che questa è una rivoluzione mondiale. Fino a 50 anni fa ogni studente americano sapeva che questa repubblica è una rivoluzione contro il mondo intero e che i suoi primi nemici sono i despoti europei. Ogni oratore del 4 luglio fino al 1888 lo diceva. John Quincy Adams si riferiva semplicemente all'aspettativa generale degli americani quando disse: "Quando verrà il giorno in cui i vostri rappresentanti dovranno stabilire se i territori di Ceylon e del Madagascar, della Corsica e di Cuba saranno governati da norme e regolamenti emanati dal vostro congresso, se gli abitanti di quei territori saranno governati per un periodo di tempo discrezionale da persone e in modo tale che il Presidente degli Stati Uniti deciderà, e se i loro popoli saranno infine costituiti in stati rappresentati nelle vostre assemblee legislative nazionali, allora sarà il momento di scoprire, in una prospettiva lontana, la piena importanza e la conseguenza finale di quella seconda sezione della legge per la presa di possesso della Louisiana." Adam si era opposto all'atto del Congresso che autorizzava il Presidente degli Stati Uniti ad amministrare il territorio ceduto della Louisiana. Adams affermò che questo atto superava il potere costituzionale del Congresso e che a causa dei diritti inalienabili degli uomini, non il Congresso né il Presidente, ma il popolo del territorio ceduto doveva determinare la sua forma di governo. La rivoluzione mondiale è un cambiamento rivoluzionario nella mente degli uomini e delle donne, nella loro visione della natura dell'universo e della natura umana. La rivoluzione è una lotta della conoscenza contro la cieca superstizione. È il riconoscimento rivoluzionario americano del fatto che gli individui sono liberi, contrapposto all'antica superstizione del vecchio mondo secondo cui l'autorità controlla gli individui. La controrivoluzione più forte viene naturalmente dalla Germania, non perché un tedesco sia naturalmente diverso da qualsiasi altro essere umano, non lo è. I tedeschi non sono naturalmente più barbari, più crudeli, meno fraterni con tutto il genere umano di quanto lo siano gli americani, ma le persone che vivono in quella parte della terra chiamata Germania non hanno ereditato dai loro antenati la conoscenza della libertà. Questi popoli sono sempre stati fuori dall'Europa. Roma non li ha conquistati, non sapevano nulla dell'uguaglianza dei cittadini romani nel diritto romano. La Chiesa non li ha tenuti in pugno abbastanza da insegnare loro l'idea feudale dei diritti umani. Erano troppo lontani dal mondo dei saraceni, la cui influenza non li raggiungeva come l'Italia e l'Inghilterra. Nel 1776, quando il loro principe disse "Mangiate la paglia", essi la mangiarono. Improvvisamente l'imperialismo di Napoleone li sopraffece, come oggi la tirannia di Hitler sopraffa la Polonia. Le armate napoleoniche costrinsero i loro principi sulla punta delle baionette ad aderire alla confederazione tedesca che faceva parte del sistema continentale di Napoleone. Ma quando Dio si stancò di Napoleone, come si dice, la confederazione tedesca fu lasciata sulle rovine del suo sistema continentale. Bismarck se ne fece carico. Socializzò la Germania sotto l'autorità del Kaiser. Bismarck regolamentò, irreggimentò, disciplinò i tedeschi e li trattò molto bene. Il governo di Bismarck istituì l'indennità obbligatoria per gli operai, l'assicurazione obbligatoria per gli operai, prelevata dai salari per la vecchiaia e la disoccupazione, l'iscrizione obbligatoria ai sindacati, la socializzazione obbligatoria degli agricoltori. le pensioni di vecchiaia, le pensioni materne e l'istruzione statale obbligatoria per i bambini. Per la prima volta nella storia della Germania il principe non disse mangiate la paglia, molto gentilmente disse datemi i vostri soldi e ve ne restituirò una parte quando riterrò che ne abbiate bisogno. Si trattava di un grande miglioramento. Naturalmente ai tedeschi piacque, sarebbe piaciuto a chiunque senza saperlo. 50 anni fa tutti gli europei ammiravano profondamente il sistema socialista autocratico tedesco. 40 anni fa la frase alla moda che tutti gli intellettuali americani alla moda ripetevano costantemente era «La Germania è 50 anni avanti a noi nella legislazione sociale». 30 anni fa Theodore Roosevelt, il presidente americano più adorato, per il quale l'orsetto giocattolo di ogni bambino americano si chiamava Teddy, ha raggiunto l'apice della sua carriera, nell'opinione popolare americana, quando da ex presidente è stato ricevuto come ospite d'onore dal Kaiser di Germania. Dal 1860, dalla Germania è uscita una corrente mondiale di pensiero controrivoluzionario. Marx era tedesco, ha guidato il socialismo mondiale ed è diventato comunismo internazionale. In Italia la dittatura di Mussolini fascista, in Russia la dittatura di Lenin e Stalin proletaria, in Germania la dittatura di Hitler nazionalsocialista. Alla base di tutto c'è la convinzione che l'autorità possa controllare gli individui per il loro bene, in un ordine sociale migliore di quello che gli individui possono creare da soli per se stessi. In questi stati gli americani che desiderano sinceramente fare del bene alle masse o alle classi lavoratrici hanno lavorato per 40 anni per migliorare la condizione dei loro presunti inferiori con i metodi di Bismarck. Così gli americani hanno ora un risarcimento obbligatorio per gli operai, un'assicurazione obbligatoria prelevata dai salari per la vecchiaia, un'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, una tassazione generale in alcuni stati per le pensioni di vecchiaia, l'iscrizione obbligatoria ai sindacati, le quote, come nella Germania di Bismarck, sono prelevate dai loro salari e una certa socializzazione obbligatoria degli agricoltori. Non ci si può aspettare che la rivoluzione mondiale non sia influenzata dalle reazioni. 40 anni dopo l'inizio di questa rivoluzione, il popolo inglese stava sopportando quello che gli storici chiamano il terrore. Tutte le sue libertà gli erano state tolte, eppure, 40 anni dopo, il movimento di riforma inglese aveva abrogato centinaia di leggi restrittive, aveva aperto i porti britannici al libero commercio mondiale e aveva concesso agli inglesi più libertà di quante ne avessero mai godute come popolo del vecchio mondo. Gli individui controllano l'energia umana, creano tutte le forme di associazione umana secondo le loro convinzioni individuali. Nessuna legge e nessuna forza che esista nel governo si è mai opposta, o potrà mai farlo, alla credenza o alla conoscenza che si trova nelle menti individuali. Per questo motivo, l'unico cambiamento pericoloso apportato dalla reazione tedesca in questo paese è la sostituzione dell'istruzione statale obbligatoria alla precedente istruzione gratuita americana. 40 anni fa i bambini americani andavano a scuola perché volevano andarci o perché li mandavano i genitori. I bambini sapevano che la scuola è una grande opportunità, che la rivoluzione aveva aperto a tutti i bambini americani. Facevano ogni sforzo per andare a scuola, camminavano per chilometri nella neve alta nelle mattine d'inverno per raggiungere la scuola. Studiavano con entusiasmo per imparare. Controllavano il loro comportamento a scuola perché un comportamento scorretto poteva essere punito con l'espulsione dalla scuola, privandoli di mezza giornata di scuola. La peggiore delle punizioni possibili era l'espulsione dalla scuola. Questa punizione, ben peggiore delle frustate, era riservata ai rari casi di assoluta mancanza di autodisciplina da parte di qualche alunno o alunna. Le uniche scuole sostenute dalle tasse obbligatorie erano le grammar schools. La convinzione era che una comunità dovesse offrire a ogni bambino l'opportunità di imparare. Dopo l'età della grammar school, un ragazzo o una ragazza era in grado di ottenere la propria istruzione se lo desiderava. Tutti lo volevano. Chi era in grado di imparare? Perché gli anni della grammar school non facevano altro che stuzzicare l'appetito per l'apprendimento. In tutto il paese c'erano accademie, scuole private di proprietà e gestione privata, come lo erano le scuole dei saraceni. Offrivano l'equivalente, per quei tempi, dell'attuale programma di studi delle scuole superiori. Lo offrivano a costi diversi, adatti a ogni circostanza. Quando Mark Twain era ragazzo nel Missouri, gli studenti diplomati delle accademie del Missouri leggevano i loro saggi e tenevano le loro orazioni in cinque lingue: latino, greco, francese, tedesco e inglese. Davanti a un pubblico che conosceva queste lingue abbastanza bene da poterne apprezzare le finezze stilistiche. C'erano librerie dove c'è Kansas City, prima che Kansas City esistesse. E ai fuochi dei campi, nelle baracche, dei carri, a buoi, sulla pista di Santa Fe, i commercianti leggevano i poeti greci in greco e la storia europea in francese. Ogni studente poteva farsi strada nelle accademie e nei college, e molti dei più validi cittadini americani di oggi lo hanno fatto. Questo metodo educativo americano non si è mai sviluppato appieno, è stato interrotto circa 40 anni fa dai riformatori tedeschi che ritenevano che lo Stato potesse spendere il denaro di un americano per la sua istruzione o per quella dei suoi figli molto più saggiamente di quanto potesse fare lui stesso. La scuola americana è ora obbligatoria, applicata dalla polizia e controllata dallo Stato, cioè dai politici in carica, e pagata con tasse obbligatorie. Il risultato inevitabile è quello di posticipare la crescita di un bambino. Egli passa dall'autorità dei genitori a quella della polizia, non ha il controllo del suo tempo e la responsabilità del suo utilizzo fino a 16 anni. La sua situazione attuale non gli richiede di sviluppare fiducia in se stesso, autodisciplina e responsabilità. In altre parole, non ha alcuna esperienza di libertà nella sua giovinezza. Questa è l'educazione ideale per lo Stato tedesco, i cui sudditi non dovrebbero mai conoscere la libertà. La disciplina nelle scuole tedesche è severa e tende a formare i giovani alla sottomissione obbediente che gli uomini del governo tedesco esigono dai loro sudditi. Ma in questo paese non funziona così, perché gli educatori americani cercano, naturalmente, di compensare la costrizione controrivoluzionaria del sistema scolastico. Non sottopongono i bambini americani alla rigida disciplina tedesca. Al contrario, cercano di rendere le scuole così piacevoli che i bambini non si rendano conto che la polizia li obbliga a stare lì. Gli insegnanti cercano di rendere l'apprendimento facile, un gioco, ma il vero apprendimento non è facile, richiede autodisciplina e duro lavoro. Il tentativo di rendere l'apprendimento senza sforzo impedisce al bambino di scoprire il piacere dell'autodisciplina e dello sforzo mentale che permette di superare le difficoltà e di fare un buon lavoro. È un trattamento crudele nei confronti delle nuove generazioni di americani che devono uscire da questa scuola obbligatoria e troppo dolcemente coccolata per affrontare la realtà di un mondo in cui gli esseri umani sono liberi e vivere non è facile. E non è la migliore preparazione per ereditare la guida della rivoluzione mondiale per la libertà. Da 100 anni la rivoluzione provoca sconvolgimenti in quasi tutti i paesi del mondo. Ora i controrivoluzionari escono dalla Germania decisi a porvi fine. I nuovi tiranni, difendendo l'antica tirannia, intendono distruggere completamente questa nuova idea che gli uomini sono liberi. Non ci credono. Con la stessa fermezza di Licurgo o di Nabucodonosor, credono che tutti gli uomini siano naturalmente soggetti all'autorità, tutti tranne loro stessi, naturalmente. Il governo, secondo loro, è autorità. Loro sono il governo, accettano questa responsabilità, credono di dover controllare e di farlo le masse inferiori. E con l'uso del vero potere, la forza permessa dalle false credenze dei loro miseri sudditi, intendono rendere il loro immaginario mondo statico, ordinato, come lo era prima dell'inizio della rivoluzione. Mussolini riporterà la grandezza dell'antica Roma, Hitler resusciterà il Sacro Romano Impero del XVI secolo e lo fonderà con divinità pagane più antiche di Roma, per durare 1000 anni. I giapponesi avranno tutta l'Asia per gli asiatici come era prima che nascesse Maometto. Fanatici reazionari, controrivoluzionari, difensori di una tirannia più antica della storia, immaginano di poter tornare al passato prima della scoperta dell'America e osano affermare che stanno creando un mondo nuovo. E ora sono armati. La rivoluzione li ha armati come i tiranni non erano mai stati armati prima. Il trattore Caterpillar che gli americani hanno inventato per arare i campi pacifici e moltiplicare come per magia l'energia produttiva dell'agricoltore, ora, armato e corazzato, carica battaglioni di carri armati sui corpi degli uomini. Il sottomarino che un americano inventò per salvare un uomo distrutto dalla prigionia a Sant'Elena, ora si nasconde sotto tutti i mari per uccidere gli uomini. La macchina che due fratelli inventarono nel loro negozio di biciclette per dare a tutti gli uomini le ali, ora rende il cielo illuminato dalla luna un terrore che spinge gli uomini sottoterra. Questo è ciò che l'autorità fa con gli strumenti della rivoluzione. Ciechi, ignoranti, incapaci di comprendere questo nuovo mondo, questi controrivoluzionari usano le scoperte degli uomini liberi, le loro invenzioni, le loro tecniche e i loro strumenti per fare a pezzi questa rete di energie dinamiche e produttive che circonda la Terra e per distruggere la libertà che la crea. Questa è una guerra intorno a tutta la Terra perché l'energia umana, lavorando sotto il suo naturale controllo individuale e quindi lavorando naturalmente ed efficacemente per soddisfare i bisogni umani, ha creato questo nuovo mondo che circonda tutta la Terra. Questa è una guerra nell'aria, è una guerra sotto tutti i mari, perché la prima volta in tutta la storia conosciuta, per la prima volta, gli individui hanno usato la loro energia liberamente per esplorare le profondità del mare e per salire alle più lontane altezze dell'aria. Gli americani stanno combattendo una guerra mondiale perché la rivoluzione è una rivoluzione mondiale. La libertà crea questo nuovo mondo che non può esistere metà schiavo e metà libero, e sarà libero. L'ignoranza, scriveva Thomas Paine, è di natura particolare. Una volta dissipata è impossibile ristabilirla. Non è originariamente una cosa a sé stante, ma è solo l'assenza di conoscenza. E anche se l'uomo può essere tenuto nell'ignoranza, non può essere reso ignorante. Come scuola delle donne desideriamo concludere questo stimolante scritto di Rose con alcune osservazioni. Quando Rose ha citato Marx, non ha citato Rosa Luxemburg, perché probabilmente non la conosceva, ma Rosa aveva scritto il suo massimo trattato economico 30 anni prima. Trattato economico che fu fatto sparire dalla circolazione con l'omicidio di Rosa Luxemburg stessa e con la trasformazione del nazionalsocialismo in nazismo. E a proposito dell'istruzione libera anziché obbligatoria, ricordiamoci che Maria Montessori aveva difeso il principio dell'istruzione libera e intuitiva già nel 1909, mentre Rose fu tra i fondatori del libertarismo americano solo 40 anni dopo. Infine, vorremmo ricordare la Nobel Gabriela Mistral, pedagogista e scrittrice cilena, la cui visione didattica la portò circa 20 anni prima di Rose Wilder a creare un metodo di istruzione che fu accolto con entusiasmo dai riformatori in Messico. Metodo che si opponeva apertamente ai programmi scolastici costrittivi delle maestre tedesche rifugiate in Cile e valorizzava invece un apprendimento naturale dell'infanzia che rispettasse le tradizioni native. E citando queste ultime poderose antenate, anche come scuola delle donne, possiamo dire fine.